America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Adele, Rolling in the Deep, canzone che ha vinto il premio per il miglior disco ai Grammy Awards di ieri sera. I Grammys, ve lo ricordo, sono gli Oscar della musica. Grande serata, grandi emozioni, grande felicità, grande tristezza, perché si è ricordata Whitney Houston, la straordinaria cantante che, pensate, è morta sabato 24 ore prima la serata dei Grammy, ad appena 48 anni. Lee Cool J, il presentatore, l'ha ricordata subito in apertura, ma poi, come si dice, the show goes on. E dunque abbiamo cominciato, vi dicevo, con Adele, che ha vinto non soltanto migliore canzone, ma ha vinto miglior disco, miglior album, miglior disco pop, migliore performance solista. Ha vinto 6 Grammy su 6 nomination, un record che ha fatto soltanto 2 anni fa Beyoncé. Ha venduto 5 milioni di dischi l'anno scorso, un giro d'affari personali solo su questo disco di circa 30 milioni di dollari. Il giro d'affari del settore discografico in America è calcolato in 15 miliardi di dollari. Dunque un grande business dietro questa serata densa di emozioni di ogni genere. Davvero una serata molto particolare proprio per questo protagonismo di queste due donne che hanno nominato la serata: Adele, la giovanissima da una parte, Whitney Houston, che purtroppo se n'è andata prematuramente. Una serata dominata da personaggi come Nicki Minaj, pensate, si è vestita da monaca, però era un vestito da monaco tutto rosso con dei ricami molto particolari, e si è presentata accompagnata da un prete. Katy Perry invece aveva i capelli blu, azzurri, blu elettrico, con un vestito di plastica un po' spaziale, secondo me orrendo, per non parlare di Bruno Mars, pensate, giacca d'oro, cravattino d'oro con camicia e pantaloni neri, un bel completino. Rihanna, scollatura vertiginosa. Taylor Swift, la ragazza della porta accanto, è quella che mi ha colpito di più, un anticlimax, aveva un vestitino leggerissimo col banjo, si è presentata, ha fatto una canzone folk meravigliosa, treccia bionda, occhi azzurri, rossetto, beh, l'immagine dell'innocenza. Voglio tornare su Adele, su una canzone, Someone Like You, perché pensate, è stato studiato che questa canzone fa piangere la gente e dà i brividi, e uno psicologo ha cercato di capire perché. Settle down, that you found a girl in your... Ecco, Adele ha scritto questa canzone con Dan Wilson, e il dottor Goon dice che questa canzone ha delle note ornamentali simili a delle appoggiature, e poi a un certo punto durante il ritornello Adele comincia a modulare un pochino la sua voce alla fine delle note lunghe, subito prima dell'ingresso dell'accompagnamento, quando c'è una nuova armonia che interviene, e questo, dice il dottor Goon, crea una specie di effetto di ottovolante, di tensione, di risoluzione, che ha un impatto immediato su chi ascolta. E c'è un altro aspetto in questa canzone: che come nascono, come vengono le lacrime, perché vengono i brividi? È soltanto Adele? No, dice il dottor Goon, che con questo collega Marcel Zenter ha fatto uno studio molto interessante. Per esempio, nel trio per piano di Mendelssohn oppure nell'adagio per corde di Barbers, ci sono delle reazioni immediate in chi ascolta di brivido, che possono essere misurate attraverso le reazioni psicologiche, calcolando il battito cardiaco, col sudore, la pelle d'oca, e questo viene applicato su vari brani musicali. Altri passaggi che danno il brivido, secondo loro, hanno almeno 4 caratteristiche. Intanto cominciano piano e poi all'improvviso esplodono. Hanno l'ingresso improvviso di una nuova voce, poi c'è uno strumento che interviene in armonia, e molto spesso si espandono sulle frequenze di fondo della canzone. Ma torniamo allo spettacolo, torniamo al momento nostalgico quando sono intervenuti i Beach Boys con Good Vibrations. Beach Boys. Boys straordinari. Pensate, i Maroon 5 hanno fatto alcune canzoni dedicate a loro sempre nella serata di ieri, perché è il 50° anniversario della formazione del gruppo e questi signori si sono presentati con capelli bianchi, doppio mento, grassottelli, insomma mostravano la loro età, erano rinfrescanti, perché invece Paul McCartney, che ha suonato in un paio di occasioni, aveva una plastica facciale che lo faceva sembrare ragazzino ma anche un po' rigido. Ma veniamo ai premi, vi ho già parlato di Adele, vediamo il resto. Migliore performance duo pop, Tony Bennett con Amy Winehouse per la canzone Body and Soul. Miglior disco classici pop, di nuovo Tony Bennett con il disco Duet 2. Tony Bennett, grande revival, grande star del passato, anche lui devo dire non sembrava che avesse una plastica facciale. Miglior performance, migliore canzone, miglior disco rock, Foo Fighters con la canzone Walk, di nuovo anche loro hanno fatto il pieno anche con Wasting Light. Miglior artista emergente, Bon Iver. Infine in chiusura, con i Foo Fighters è ritornato in scena Paul McCartney, insieme hanno fatto un medley di Abbey Road. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera, la Grecia che ha firmato l'accordo. Questo darà un impatto importante sulla finanza di oggi. Abbiamo avuto la vittoria di Romney in Maine, una vittoria importante, pensate se avesse perso, ma di questo troverete notizie su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, la dedichiamo naturalmente alla grande Whitney Houston in un classico che ci ha fatto sognare, un classico immortale, I Will Always Love You. And I hope you have all you dreamed of. New York è tutto, oggi è la giornata mondiale della radio, proclamata dall'UNESCO. La radio resta il mezzo nel 2012 di comunicazione in grado di raggiungere il pubblico più ampio, e dunque su questo mezzo Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.